Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Anche i fasci di neutroni. Eppure il laser. Sì, sì, anche queste tecniche tipiche della fisica le raccontiamo qui a Food Lab perché sono utilizzate nella industria alimentare. Si è tenuto a luglio un grosso convegno internazionale sulla metrologia del cibo e noi oggi parliamo di che cosa. Beh, intanto cominceremo a capire che cos'è la metrologia del cibo. Poi vi parleremo di due tecniche particolari. Il nostro ospite è Andrea Mario Rossi. Benvenuto, Rossi. Grazie dell'invito. Allora, ci dice qualcosa in generale sulla metrologia del cibo? A naso si direbbe che è tutto ciò che serve per misurare tutti i parametri degli alimenti, una roba così. In parte diciamo che c'è un legame con tutti questi aspetti che avete citato. Effettivamente è misurare e quindi essere a conoscenza, cioè la misura come conoscenza, come, e quindi dare sostanzialmente dei numeri che possano essere delle quantità, quindi ascrivere delle quantità a dei cibi, a dei parametri dei cibi, e dare nello stesso tempo una riferibilità, però questa misura, una riferibilità al sistema internazionale e quindi al metro in parte che avete citato, se noi parliamo chiaramente di un parametro dimensionale. Per avere degli standard internazionali. Ecco, all'interno di questi parametri, la misurazione appunto di alcuni parametri, di alcuni valori per il cibo sono fondamentali per capirne in alcuni casi la qualità, la quantità e così via. Adesso abbiamo deciso di parlare di due tecniche particolari che voi lì nel vostro istituto mettete a punto. Una è la spettroscopia legata un po' ai vini, agli oli, per capire giustamente la qualità e anche l'origine, certificarne per così dire l'origine. Certo, noi sostanzialmente utilizziamo la luce, quindi semplificando andiamo con la luce laser a illuminare i cibi e ne prendiamo la loro qualche modo riflessione che noi poi andiamo a visualizzare come un'immagine chimica. Quindi ogni cibo ha una sua immagine chimica che può essere associata a una sua impronta digitale. Che è sua e sola sua, cioè diciamo è proprio personale. Facciamo un esempio: il Brunello di Montalcino ha la sua impronta. Il Brunello di Montalcino sì, avrà la sua impronta che è data chiaramente da un insieme di caratteristiche, cioè da partire chiaramente dal clima, dal suolo e fino ad arrivare poi alla produzione del vino, quindi sostanzialmente e anche alle botti dove è invecchiato, quindi sostanzialmente alla fine l'immagine chimica che noi abbiamo sarà la somma di tutte queste, Cioè. Ma voi lanciate un raggio laser dentro la bottiglia, quindi in quella microatmosfera che c'è tra il tappo e il vino, e lì fate un'analisi spettroscopica, insomma andate a trovare questo marcatore che identifica il vino. È così la tecnica? Certo, noi con una luce laser andiamo a colpire, possiamo attraversare anche dei mezzi, quindi non risultano essere degli interferenti, per esempio il contenitore del cibo, nel caso trasparente alla radiazione laser, quindi arriva all'interno, colpiamo, in questo caso se il vino per esempio potrebbe essere il liquido, e di questa con potenze basse, di questo ne prendiamo sostanzialmente la luce emessa, la luce eccitata, e poi l'analizziamo diciamo attraverso uno spettrofotometro che immaginiamo come se fosse un prisma che andiamo a scomporre le sue componenti e quindi a prendere l'immagine ottica. Ecco, noi possiamo utilizzare questa tecnica per certificare in qualche modo che quel vino sia ad esempio di Montalcino piuttosto che quell'olio toscano piuttosto che pugliese, cioè noi lo utilizziamo per valutarne la provenienza e la qualità. Quindi è un sistema antifrode. Certo, assolutamente, uno degli aspetti, oltre chiaramente alle forme, diciamo, gli aspetti più scientifici, è chiaramente anche proprio l'applicazione, cioè alle frodi, quindi alle dogane, quindi poter, nel momento in cui noi abbiamo del Brunello e del Montalcino, quindi di un dato produttore, la sua immagine, la sua impronta spettroscopica del suo vino, noi la andiamo a salvare in una banca dati, per cui alla fine quando noi abbiamo una bottiglia per esempio incognita, prendiamo lo spettro e andiamo a confrontare con lo spettro che avevamo dalla banca dati. Se non ci sono chiaramente differenze, confermiamo. E quindi questo potrebbe essere chiaramente per la salvaguardia del medium. Voi non utilizzate raggi laser, ma fasci di neutroni per fare qualcosa di molto diverso, ma che va sempre verso il cibo. Ce lo racconti? Noi abbiamo appunto l'unità distaccata di Pavia che utilizza un reattore che si chiama Triga, sostanzialmente un reattore di neutroni, per cui in questo caso immaginatevi di avere una sorta di piscina di alcuni metri quadri dove in quel caso ci sono dei flussi continui di neutroni e lì vengono immersi il cibo che si vuole analizzare. In questo caso viene colpito il cibo da neutroni e in particolar modo, una volta estratto, poi si vanno a analizzare i raggi gamma emessi dai decadimenti delle specie metalliche contenenti per esempio la matrice alimentare, e quindi è una misura sia qualitativa sia quantitativa degli elementi, dei metalli presenti. Sì, mi dica se sbaglio riassumendo, lì potete mettere per esempio della farina, in quella farina ci potrebbe essere del metallo che è stato tirato su dal suolo, attraversato dai neutroni il metallo reagisce e quindi rivela la sua presenza. Esattamente. Ecco, qui forse dobbiamo sottolineare il fatto che appunto negli alimenti non dovrebbero esserci metalli, certo, per cui se voi li rilevate vuol dire che c'è qualcosa che non va, ed è anche qui uno strumento per la qualità del cibo. Sì, dunque, allora ci sono degli elementi in traccia di metalli al quali per esempio zinco sono presenti, in alcuni casi magari sono anche auspicabili, ovvero sono naturali. Poi invece ci sono delle quantità al di sopra delle quali siamo in un regime di abnormalità, oppure dei metalli che invece non ci dovrebbero essere perché magari sono metalli tossici. Senta Rossi, queste tecnologie sono già applicate, vengono già in qualche modo commercializzate o impiegate nelle industrie o sono ancora a livello di ricerca? Dunque, per quanto riguarda la spettroscopia Raman, si può dire che ormai a livello industriale viene utilizzata con buoni risultati e soprattutto con crescenti risultati dato la sua tipo di diffusione. Per quanto riguarda invece l'attivazione neutronica, diciamo che rimarrà comunque una tecnica che verrà utilizzata su laboratori altamente specializzati, che però produrrà materiali di riferimento che serviranno per tarare altri strumenti e quindi comunque avrà un ruolo di disseminazione dell'unità, delle misure, insomma, e quindi un impatto nella società. Chiarissimo, grazie Rossi, buona ricerca. La ringrazio, arrivederci. Ma non è chiara che lì a Ginevra dove c'è l'acceleratore? Ma tu stai insinuando che utilizzino l'acceleratore per guardare se nella pasta asciutta sono rimasti dei residui metallici? Ma lì non si prende il Nobel, No, direi di no. Va bene, per oggi è tutto. Alla prossima con Food Lab.